Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente ci occuperemo di quello che è emerso dal cosiddetto piano Colao e quindi 102 proposte in 6 aree, dallo smart working al rinvio delle tasse, che da quanto abbiamo capito dovrebbe servire, ci mancherebbe, anche come elemento di discussione per i famosi stati generali dell'economia che ha annunciato il Premier Conte. Sono appunto sei voci, sei aree per essere più precisi, da imprese e lavoro a turismo, arte e cultura, amministrazione, istruzione, famiglie e infrastrutture. Di questo parleremo anche per concludere il ragionamento su, invece, sul patto per l'export che ieri si è tenuto alla Farnesina, quindi faceva gli onori di casa il ministro degli esteri Di Maio, e anche parleremo della cassa integrazione, perché al di là poi delle reazioni, devo dire abbastanza dure, del mondo delle imprese alle parole di Tridico di ieri, che ha detto, poi lo ricorderemo, ci sono alcune imprese che approfittano della cassa integrazione. Io ho detto in maniera molto chiara, per carità, nessuno ti dice che questo non possa accadere, le mele marce ci possono essere dappertutto, però attenzione che parlare in questo modo della cassa integrazione quando c'è ancora una platea di centinaia di migliaia di persone che non ha ricevuto la cassa integrazione dovuta, e qui i dati divergono, tra i dati dell'INPS e i dati che invece arrivano facendo altri calcoli, è un po' inopportuno, perché c'è ancora chi sta aspettando la cassa integrazione di marzo e di aprile, e lì è difficile dire che ci fossero aziende che preferivano restare in cassa integrazione. Chi poteva aprire, perché restava nei codici Ateco, ha aperto e ha continuato a lavorare. Più o meno l'Istat calcolò il 48% delle imprese manifatturiere, invece erano tutte chiuse quelle di carattere commerciale, quindi vendita al dettaglio, tranne che per i generi alimentari, e intanto pagate la cassa integrazione, soprattutto quella in deroga, che è quella più lenta, per i mesi di aprile e maggio. Poi, certo, uno va a controllare che non vi siano richieste improprie, ma da come conosco io le imprese, nessuno ci tiene, diciamo, a fatturare meno e a tenere le persone in cassa integrazione. Se torna il giro d'affari di prima, è chiaro che tu hai bisogno delle persone che avevi formato prima, che lavoravano con te prima, quindi in linea generale tenderei a escludere quello che dice Tridico, che insomma secondo me ha perso un'occasione per stare zitto, anche perché ricordiamo ancora il fantastico Click Day e quello che poi ne è seguito. Capisco benissimo che l'INPS sia sommersa da un lavoro, da una mole di lavoro mai visto prima, però insomma è inutile polemizzare così sulla base di intuizioni da questo punto di vista, tant'è che il presidente della piccola industria e Confindustria, Carlo Rubiglio, ha definito offensive le parole di Tridico ieri, e anche il presidente di Federmeccanica, ha detto Alberto Dal Pozzi, si ha l'impressione che il presidente dell'INPS non abbia mai messo piede in un'azienda, facendo emergere pregiudizi e atteggiamenti anti-impresa che non fanno bene al paese. Allora, per quello che riguarda i temi, quindi sono da un lato la cassa integrazione, i numeri sulla cassa integrazione, dall'altro il piano di Colao nelle varie sue sfaccettature, e infine anche la parte che riguarda il patto sull'export. Questo appunto in attesa di capire quando e come si realizzerà. Dovrebbe essere giovedì l'inizio del tavolo degli stati generali dell'economia, però stiamo attendendo anche conferme da questo punto di vista. Per quello che riguarda invece i mercati finanziari, oggi la giornata è negativa, devo dire Milano è esattamente in linea con tutte le altre borse, -1,40 Milano, -1,40 Parigi, -1,30 Francoforte, Londra -1,90, Dow Jones -0,75%. Ci sono anche dei realizzi, visto che le borse molte erano cresciute anche in queste ultime sedute. UbiBanca -4,20, oggi sono i bancari soprattutto a soffrire. UbiBanca -4,90, Intesa San Paolo meno 4,30%, Fiat Chrysler meno 4, Unicredit meno 4, Leonardo meno 3,80, Azimut meno 3,70, Banca Mediolanum meno 3,5 come Mediobanca, il 3,20 lo perde Eni e il 3% è il calo anche di Banco BPM e Saipem. Di positivo CNH più 2,5, Nexi più 2,5, Ferrari più 1,60 come Amplifon, l'1,1 lo guadagna di Assorin, lo 0,50 Prismian. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vedo molti messaggi su cassa integrazione. Dunque, io non ho detto che non esista qualcuno che fa il furbo. Purtroppo, conoscendo il suo paese, furbi, o per meglio dire disonesti, esistono in qualunque settore e possono esistere anche nel mondo delle imprese. Ho detto, ma poi torneremo sul tridico di ieri, che andare a una generalizzazione così alta nel momento in cui devi ancora pagare la parte della cassa integrazione di marzo e aprile non mi sembra il caso. Poi l'INPS farà i controlli che deve fare, ci mancherebbe, nessuno mette in dubbio che vadano controllati, però attenzione, perché è un contesto molto diverso. Se tu avessi uno Stato che ha pagato la cassa integrazione, quella in deroga, quella invece ordinaria, sappiamo come funziona, che le aziende l'anticipano spesso perché poi vanno in credito con l'INPS sui contributi, però se voglio dire fossimo uno stato in cui la macchina si è mossa in maniera efficiente, per carità, puoi anche segnalare casi, distorsioni, abusi e quant'altro, ma nel momento in cui risultano più di 400.000 all'INPS, altri calcoli stimano più vicino al milione il numero di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, mi sembra un po', diciamo, così fuori luogo un ragionamento quando tu devi ancora pagare la cassa integrazione. Tutto qua. Comunque, allora andiamo intanto ai dati di carattere internazionale e poi arriveremo anche a questo tema. C'è molta polemica, se ne sono occupati chiaramente anche i nostri GR 24 sulle lo studio di Harvard che segnala attraverso le immagini satellitari un'impennata del numero dei veicoli fuori dai principali ospedali di Wuhan, quindi l'epicentro dove è nato, stante le notizie che abbiamo, il coronavirus lo scorso inverno. E secondo la Harvard Medical School della Boston University of Public Health, dopo le analisi delle immagini satellitari dei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020 e le tendenze nelle ricerche su internet, nasce qualche sospetto. C'è un forte aumento nei parcheggi a partire dall'agosto 2019 con un picco a dicembre 2019. Tra settembre e ottobre 5 dei 6 ospedali analizzati hanno visto il loro più alto volume giornaliero di automobili. Ora è chiaro che è uno studio induttivo, non c'è nulla di certificato, ma già il fatto che si debba arrivare a guardare le immagini satellitari del numero di parcheggi presenti negli ospedali e le ricerche più frequenti, tra cui c'era appunto alcune voci che sono correlate ai sintomi di Covid, tradisce lunga sulla scarsezza di informazioni che arriva dalla Cina e sulla non affidabilità delle informazioni cinesi. Voglio dire, se la comunicazione cinese fosse stata più trasparente, o diciamola tutta trasparente, non ci metteremmo a guardare le immagini satellitari per capire da quando quel virus circolava e quando si erano riempiti i parcheggi degli ospedali di Wuhan. Poi uno può dire sarà stato dovuto a altri motivi. Certo che se fai un confronto dal 2018 fino al dicembre 2019 noti un incremento in particolare. No, voglio dire, qualche dubbio ti viene. Poi la Cina risponde come bolla, come ridicolo lo studio della Harvard Medical School, così commenta il portavoce del Ministero degli Esteri. Però la Cina continua a negare ogni ipotesi di una mancata comunicazione del virus, ma non ci dà informazioni per confutarla con dati oggettivi. La Grecia da lunedì toglierà le limitazioni all'Italia, lo ha confermato il ministro degli esteri greco Dendias dopo il colloquio con il ministro Di Maio, e quindi toglierà dal prossimo lunedì in maniera graduale fino alla fine del mese tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Ancora per quello che riguarda il Recovery Fund, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha detto che la proposta di Parigi e Berlino per un fondo da 500 miliardi di euro è stata molto ben pensata. Ci sono differenze non piccole, ma c'è la volontà di arrivare a un accordo, anche se l'Olanda insiste, il Recovery Fund ci deve essere un forte legame tra le riforme strutturali chieste dall'Unione Europea e i prestiti. Continua a parlare di prestiti il governo olandese, anche se la proposta è di un 2/3 di sussidi e 1/3 di prestiti. I dati europei, nel primo trimestre 2020 l'Italia assieme alla Francia ha registrato il maggior calo del PIL in Europa, meno 5,3%, contro una media del 3,6% nella zona euro. La Banca Centrale Francese stima un crollo del PIL in Francia del 10%, quindi più alto dell'Istat, che porta il crollo del PIL italiano, stima all'8,3%, ma in linea con quanto è la stima di Banca d'Italia sull'Italia. La Banca d'Italia ha stimato un crollo del PIL quest'anno tra il 9% e, nella versione peggiore, il 13%. La banca centrale tedesca, la Bundesbank, ha stimato un crollo del PIL tedesco intorno al 7%, la banca centrale francese lo stima intorno al 10%. Ora, visto che nel primo trimestre noi e la Francia abbiamo avuto appunto il calo più forte e identico, meno 5,3%, tenderei così a ritenere un 10%, una cifra purtroppo. Realistiche. La Banca di Francia dice vi saranno segnali di una progressiva ripresa nel terzo trimestre di quest'anno, però nel 2021 un più 7%, e si tornerà ai livelli, diciamo, del 2019 solo nel 2022. Sempre la Banca di Francia, la Banca Centrale Francese, stima 1 milione di posti di lavoro persi nel 2020 in Francia, con una disoccupazione che dovrebbe raggiungere un picco dell'11,5% a metà del 2021. Purtroppo sappiamo che c'è un effetto trascinamento nella disoccupazione, per vedere ridiscendere questo tasso in Francia di disoccupazione bisognerà attendere il 2022. Però lo Stato francese nel frattempo ha stanziato 15 miliardi di euro per sostenere la filiera aeronautica duramente colpita dal virus, penso al colosso Airbus, ma non solo, e poi ricordo che ha già messo 18 miliardi di euro per salvare l'industria del turismo e 8 miliardi per l'industria dell'auto. La Germania, i dati sull'export di aprile, non poteva che essere così, sono drammatici, meno 24% l'export tedesco rispetto a marzo e meno 31% rispetto all'aprile del 2019. È il crollo dell'export più forte in Germania da quando esistono le statistiche storiche, cioè dal 1950, quindi qui stiamo, purtroppo lo sapevamo, riaggiornando tutti i record del 2009, e quindi dal 1950, quindi dal dopoguerra, che la Germania non vedeva un crollo dell'export del 31%. Cioè, non è che lo ha avuto nel 50, che da 50 abbiamo le statistiche e non si era mai verificato. Allora, veniamo all'Italia. Dal 17 giugno fino a settembre 2021, lo comunica la Banca d'Italia, entreranno in vigore le misure che introducono maggiore flessibilità nelle regole varate dalla BCE per sostenere l'afflusso di credito a famiglie e imprese anche di piccola dimensione. È quanto spiegato in una nota la Banca d'Italia. Per quello che riguarda invece le richieste già presentate, dunque, sono 503.660, per un valore di 10 miliardi e 270 milioni di euro, le domande pervenute al Fondo di Garanzia per i finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% nel periodo tra il 17 marzo, quando è entrato in vigore il Cura Italia, e ieri. Quindi queste sono domande già pervenute al Fondo di Garanzia e il Ministero dello Sviluppo Economico e il Medio Credito Centrale sottolineano come questi finanziamenti possono essere erogati automaticamente senza attendere l'esito dell'istruttore da parte del Fondo di Garanzia. Le richieste appunto sono 500, cioè la stragrande maggioranza sono per i 25.000 euro, che poi la legge, quando è stato convertito in legge il decreto, le ha portate fino a un massimo di 30.000 euro, purché rappresenti il 25% del tuo fatturato, fino al massimo del 25% del tuo fatturato, non più ricavi, e allungando la scadenza del rimborso da 6 a 10 anni per le nuove. Ora, dico che sono la stragrande maggioranza, perché su 555.000 domande pervenute, per un totale di 26,7 miliardi, 500.000 sono per i 25.000 euro garantiti al 100%. Le altre 55.000 sono per gli importi superiori, quindi fino a 800.000 euro, poi fino a 5 milioni, dopo i 5 milioni interviene la CDP, e infatti le 500.000 domande valgono 10 miliardi, le altre 50.000 domande valgono 16 miliardi perché sono di importo nettamente superiore. Allora, dicevo che c'era un po' di incertezza su quando partiranno gli stati generali dell'economia. Il ministro per i rapporti col Parlamento, D'Incà, poco fa ha detto che inizieranno nel fine settimana, quindi non più giovedì, da quello che capisco, ma venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Un confronto serrato per avere un paese unito, in un confronto di dialettica e trovare soluzioni concrete. Per quello che riguarda invece i consumi delle famiglie, hanno fatto un meno 4% nei primi tre mesi dell'anno. Questo però, cioè, è dovuto al Covid, ma anche al lockdown, diciamo, conseguente il Covid. E poi andiamo invece su altri temi. Devo dire, so che qualcuno diceva, ma lei parla tantissimo di scuola. No, guardi, parliamo di scuola quando, perché non abbiamo ancora capito. Ieri ci ha sorpreso, tra virgolette, il dietro fronte della ministra Azzolina, che ha detto: non ho mai pensato ai plexiglass. In realtà noi abbiamo letto le dichiarazioni in cui il ministero stava valutando i plexiglass nelle scuole. Va bene il dietro fronte, diteci per favore che cosa state valutando, ma soprattutto, come chiede oggi il Sole 24 Ore con due interventi importanti, fateci sapere qual è il metodo che avete utilizzato per far sì che l'Italia sia l'ultimo paese a riaprire le scuole. Si chiede solo un po' di trasparenza, cioè quali sono state le valutazioni del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico. Non è un reato chiedere di vedere pubblicate, di ricevere l'approccio metodologico utilizzato, e che a differenza di Francia, Spagna, di due paesi molto simili a noi, anche Gran Bretagna come contagi e vittime, per non riaprire le scuole o non tentare neanche un prolungamento dell'attività scolastica. Dopodiché oggi il professor Patrizio Bianchi, che guida la task force voluta dal Ministero dell'Istruzione per la ripartenza a settembre, era in audizione in Commissione Istruzione alla Camera. Ha detto: a settembre non ci arriviamo, non si potrà riaprire se non si fanno semplificazioni, e in questo gli do ragione, se non si possono fare spese anche piccole senza fare gare. La pandemia deve essere come il terremoto, deve essere una spinta per semplificare le norme, e dobbiamo fare una formazione particolare sui dirigenti. L'organizzazione della scuola è tra le più complesse, il dirigente deve essere preparato. Siamo concentrati sulla distanza tra gli alunni con il metro. Abbiamo cominciato a ragionare sul lavoro all'esterno, che significa anche cambiare il modello didattico. Questo ci permette di cominciare a ragionare su una scuola diversa, in cui le attività indoor, cioè basi caratterizzanti, ci siano delle attività che io chiamo di comunità educante. Il museo non deve essere la gita e non deve essere neanche la fuga, perché non ho abbastanza spazio a scuola. Deve essere una parte strutturata di un'offerta didattica disegnata insieme col territorio. Nulla da contestare su questo ragionamento di Bianchi, adesso ne ascolteremo anche un altro. Mi sembra però che trovandoci noi al 9 giugno, il ragionamento sulla scuola è importante come premessa. Adesso però, guardate, oggi non ho voglia di polemizzare, vorrei sapere quali sono poi le indicazioni concrete del CTS, che ha avuto tre mesi per lavorare, visto che insomma per lavorare dal 7 marzo, dal 10 marzo, quello che è, non mi interessa, per lavorare, oltre che a un ripensamento complessivo della scuola, a delle misure molto concrete per far tornare almeno in classe i ragazzi almeno a settembre. Allora, e quindi ha detto il museo non come gite, poi dice di non occorre non trascurare il tema del sostegno psicologico ai docenti. C'è un problema di formazione con supporto psicologico. I nostri insegnanti sono stati messi a durissima prova. Se verranno messi alla dura prova durante l'anno e lo saranno anche negli anni successivi. Occorre dotare loro di un equipaggiamento di gestione anche delle emozioni, non solo dei ragazzi, ma anche delle famiglie. Ma attenzione a non caricare troppo sui singoli insegnanti. La nostra visione è che bisogna allargare l'area di una comunità educante. Non si possono lasciare i singoli insegnanti con un carico così. No, Bianchi, però abbia pazienza, io la stimo molto, lei è stato un nostro ospite, un bravo economista, molte volte è stato assessore delle attività produttive della Regione Emilia-Romagna, ma cosa vuol dire non può essere lasciata solo sul personale docente, bisogna allargare? In questo momento tutto il carico è stato sui docenti che hanno avuto voglia e si sono messi d'impegno a fare didattica a distanza e sulle famiglie che dovevano seguire, soprattutto i ragazzi più piccoli, in questa didattica a distanza. Abbiamo già allargato, Bianchi, poi io veramente faremo delle bellissime interviste sul tema scuola, ma adesso dobbiamo capire come ripartire a settembre. Io non so, ma un'iniezione di concretezza a partire dal governo e di operatività e di andare a dire come, quando, cosa, mi rendo conto di essere un po' prosaico, ma si può avere? Va bene ragionare sulla docenza che deve essere allargata anche a altre sfere, però in questo momento l'unica sfera o le sfere girano sono quelle dei genitori, Bianchi. Quelli chiaramente maschi in questo caso, perché tutto si è scaricato sulle famiglie e chiaramente con l'impegno che ogni volta ricordo di molti docenti, non tutti, ma nel fare la didattica a distanza. Ma poi adesso tutto se lo stanno smazzando le famiglie, abbiamo già allargato la didattica, Bianchi, ma cioè, io capisco il filosofare, ci mancherebbe, però primum vivere e soprattutto riaprire. Comunque e poi dice appunto Bianchi, la scuola deve tornare al centro del dibattito nel nostro paese. Noi siamo entrati in questa pandemia con un paese che aveva un tasso di crescita dello 0,3%, che ha avuto dei tassi di crescita fra i più bassi d'Europa per molti anni. E non a caso è quello su cui le istituzioni internazionali ci dicono che non abbiamo puntato abbastanza sulle nostre scuole, comprese quelle tecniche professionali. E io credo che noi abbiamo una scuola primaria che non ha confronto in Europa. Siamo meno attenti alle scuole superiori. Noi dobbiamo nelle scuole superiori pensare di più, articolare di più, legarle di più col territorio, legarle di più con le dinamiche in cui queste scuole stanno vivendo, in particolare le scuole tecniche e professionali. Anche qui tutto condivisibile. Abbiamo parlato molte volte con Gavosto, che è presidente della Fondazione Agnelli, e che ci ha raccontato, perché è uno dei centri d'eccellenza in Italia nello studiare la didattica e l'insegnamento, come noi abbiamo una didattica molto buona fino, diciamo, alle scuole elementari sicuramente, alle scuole medie un po' più sacrificate e alle superiori iniziano i problemi. Ma questo, diciamo, lo faremo volentieri di nuovo quando faremo un bel approfondimento su come migliorare la scuola. Bisogna aprire a settembre, anche perché se la scuola deve essere al centro del dibattito, lo può essere solo se è aperta, tra virgolette. Comunque, sentite l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, sulle indicazioni arrivate dal ministro Azzolina per le riaperture. Oggi era ospite di 24 Mattino con Simone Spezia. Da ieri mattina in Veneto le ultime classi delle scuole della formazione professionale, che sono di competenza della Regione, quindi perché un rientro alla normalità è possibile ed è anche necessario. Guardi, il numero esatto delle scuole dei ragazzi, diciamo, è preciso, sono circa 6.000. E i nidi sono tutti quelli che grazie alle linee guida che sono state promulgate dalla Regione del Veneto, per questo ministro non è che ci abbia dato delle certezze, delle rassicurazioni, e alle volte si fa fatica anche a capire quale sia la linea di indirizzo. Quindi noi cosa abbiamo potuto fare? Noi abbiamo cercato di rendere praticabili dei condizionamenti che pur ci sono, il numero di bambini per numero di operatori per quanto riguarda i nidi o le scuole dell'infanzia, dall'altra quei principi generali legati a distanziamento, igiene, un metro, sicurezza per le scuole. Si sono lamentati da Roma, Donat San? Non li abbiamo sentiti. A me pare incredibile che la scuola sia chiusa dal 27 di febbraio. Un incontro solo ha fatto il ministro Azzolina con gli assessori all'istruzione, con i miei colleghi di tutte le regioni. Nessuna informazione da parte del ministero. Abbiamo chiuso quest'anno in maniera quasi quasi liquidandolo, nessun esame per la terza media, e che dà anche il senso di poco rispetto nei confronti dell'impegno dei docenti e degli studenti. Allora, adesso chiudiamo con questo e poi andiamo sulla cassa integrazione, Tridico e quant'altro. Io ho la sensazione che qua si giochi a buttare la palla sempre in altri campi. Lei è troppo populista, sta facendo demagogia. Guardi, io non so esattamente cosa intenda lei per populismo, ma se chiedo di sapere come riaprono le scuole almeno a settembre, essendo l'ultimo paese a riaprirle nell'area euro e anche tra quelli che hanno avuto contagi, ahimè, morti simili, dov'è il populismo? Non ho detto dov'è il populismo? Perché non ho detto frasi auliche, accademiche, filosofiche, chiedo la riapertura di capire il plexiglass no, plexiglass sì, come entrano cinema, teatri, e voglio dire, quando, allora, Patrizio Bianchi dice le regole sanitarie gli hanno chiesto, sono troppo esondanti, non lo so, è Miozzo, che è il coordinatore del comitato tecnico scientifico, il responsabile di tutti i presidi di contenimento dell'epidemia. Le domande le dovete rivolgere a lui. A lui dovete domandare quante mascherine e quanto distanziamento nei vari scenari. Miozzo, cercheremo Miozzo. Ancora, chi deve decidere? I commissari gli hanno chiesto, in audizione alla Camera, chi è stato eletto? Io sono solo qui, ha risposto Bianchi, per una competenza tecnica di supporto di chi ha responsabilità, il governo e il Parlamento. Le linee guida le farà il ministro, che poi si confronterà con voi. Noi siamo stati puntuali, a noi è stato chiesto di formulare previsioni di carattere finanziario. A noi non è stato chiesto di formulare previsioni di carattere finanziario, la disponibilità di decidere quante risorse vanno date alla scuola non può essere di un comitato di esperti. Credo sia giusto che nel momento di difficoltà il paese si rivolga agli esperti, ma poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Vorrei essere più coraggioso, ma non è il mio ruolo. Pure qua. Allora, tra il sostegno psicologico ai docenti, che per carità, l'importanza della scuola al centro del dibattito del paese, le regole sanitarie di Miozzo, l'Azzolina che dice plexiglass, stiamo pensando, poi no, non ho mai pensato ai plexiglass, Bianchi che dice bisogna semplificare sulle gare, sono d'accordo, fate il decreto per la semplificazione dell'edilizia nella scuola. Le lezioni all'esterno cambiando didattica, il lavoro, cambiare il modello didattico, a noi non viene che in mente una cosa. Terapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pufallina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Allora, dopo il metodo e la pubblicità parliamo dei dati sulla cassa integrazione, al di là, diciamo, non solo per le parole di Tridico di ieri, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dal ministro Azzolina al presidente dell'INPS Tridico, che cosa riunisce? Nulla, se non banalmente che mi ero permesso di chiedere le dimissioni, ma non vale niente la mia richiesta, sia del ministro Azzolina, questo l'altra settimana scorsa, e confermo la mia idea, cioè non è che sei obbligato a fare il ministro, se non sei in grado dimettiti, e anche a suo tempo per la figuraccia dei click day di Pasquale Tridico, ma voglio dire, ripeto, è un'opinione per carità. Però queste due cose le lega. Perché parliamo di Tridico? Perché ieri il presidente dell'INPS, allora, che per carità può anche segnalare se vi sono degli abusi, guardate che far lavorare, qualcuno mi scrive, un dipendente che è in cassa integrazione si chiama truffa ai danni dello Stato. Poi io non è, conoscendo questo paese, avendo la classifica del venerdì da anni, non metto in dubbio che qualche imprenditore possa fare il furbo, ma da lì a dire, come ha detto ieri, stiamo sovvenzionando con la CIGA anche aziende che potrebbero ripartire magari al 50% e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo, per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena e il mercato riparta come prima. In alcuni settori ci possono anche essere imprenditori che non affrontano le difficoltà della riapertura, tanto c'è lo Stato che paga l'80%, un po' meno, ti dico, della busta paga. Ora, se il presidente dell'INPS ha delle notizie chiare, lo dica, perché noi sapevamo che solo il 48% delle imprese manifatturiere erano attive durante il lockdown, non le imprese commerciali, diciamo la maggior parte delle imprese dei servizi commerciali erano chiuse. Però se lui ha avuto notizia dagli ispettori che c'è qualcuno che sta facendo il furbo, o meglio sta compiendo un reato, lo deve dire. Non può dire ci possono anche essere imprenditori che non affrontano. Cosa vuol dire così? Come dire ci possono essere anche funzionari dell'INPS che stanno rallentando le pratiche. O hai degli elementi precisi o se no ti becchi le reazioni. Ed è il presidente della piccola industria Robiglio che ha definito offensive le parole del presidente Tridico. Scioccanti l'ha definita il presidente Confindustria Bonomi. Il presidente di Federmeccanica ieri ha detto Tridico fa perdere fiducia nello Stato, ci sono pregiudizi e atteggiamenti anti-impresa che non fanno bene al paese. Allora, vediamo di capire invece, al di là di questa, a me sembra sempre di buttare la palla in un altro campo per evitare la polemica. Allora, ha detto Tridico ieri, a proposito dello scarto di circa 800.000 persone tra domanda potenziale e richieste effettivamente presentate, l'unica cosa che conta è il modello SR41. Sulla base di quel modello posso dire che entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 420.000 domande di cassa integrazione giacenti, quindi almeno 420.000 sono giacenti. C'è uno scarto segnalato da vari, diciamo, inchieste e anche da vari articoli. Tridico però ha detto le altre imprese non ci hanno mandato l'SR41, per cui, e lì ballano 420.000 lavoratori. Il problema è che se dai beneficiari potenziali si sottraggono quelli già pagati da INPS o dalle imprese, sono 8.400.000 meno 7.600.000, sarebbero 830.000 quelli che dovrebbero averne diritto. Ma secondo quello che dice Tridico, alcune imprese non avrebbero presentato l'SR41, quello che contiene i dati dei lavoratori effettivamente messi in cassa dalle imprese. Direttore Francesco Seghezzi, che dirige appunto la fondazione ADAPT, centro studi sul lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi, buonasera. Buonasera a voi. Ci aiuta a capire, al di là della polemica a mio avviso inutile di Tridico, cioè se ha degli elementi di reato che intervenga, ma altrimenti è inutile buttare così. Genericamente ci potrebbero essere delle imprese, questo è un governo che ama i gerundio e i condizionali, però ci può far capire questo scarto? L'INPS dice ce ne mancano 420.000, un calcolo numerico dice che dovrebbero essere 830.000? Allora, diciamo che fin dall'inizio di questa situazione i numeri sulla cassa integrazione sono sempre stati un po' un mistero della fede, direi, e anche questi calcoli lo confermano. Se noi andiamo a prendere quello che l'INPS, perché sembrerebbe che l'INPS dichiari nella stessa comunicazione, diciamo così, due dati che non stanno insieme, ossia il fatto che sono soltanto è una parola, in realtà sono molti, 420.000 le casse non ancora erogate, ma allo stesso tempo se noi prendiamo i beneficiari, cioè quelli a cui spetta, e quelli effettivamente erogate, la differenza di 820.000. La tesi di Tridico è che appunto le imprese non hanno presentato questo famoso modulo, che è il modulo, per intenderci, in cui oltre al nome e cognome c'è l'IBAN del dipendente, per cui gli viene versato su quell'IBAN lì. Secondo altri documenti, diciamo così, emersi su qualche inchiesta giornalistica, però che sono elementi ufficiali dell'INPS, in realtà se andiamo a prendere proprio il numero di questi moduli, e quindi quelli già presenti, il numero sale oltretutto oltre gli 820.000, quindi andrebbe verso il 1.400.000. Qui il dubbio che Tridico ha anche cercato di chiarire nella sua intervista l'altro giorno è che magari tante volte ci sono dei doppioni all'interno di questi moduli. Da qui a dire che su 1.400.000 ci sono doppioni pari a 1.000.000, mi sembra un po' tanto, un'affermazione un po' azzardata. Quindi, secondo me, non è che sia una risposta a quello che lei mi chiede, ma c'è stata molta confusione e se uno deve, diciamo, per principio di precauzione, è più probabile che ci siano di più dei 400.000, più in linea tra quelli che sono effettivamente i beneficiari e quelli pagati rispetto al numero. Detto questo, se Tridico, come ha detto, si impegna entro la settimana a pagare a tutti quelli che hanno consegnato il modulo, il problema non si pone, al di là che siano 100, 200, 500. Se tutti quelli che hanno consegnato il modulo la ricevono, il problema è risolto. Vedremo settimana prossima se succede. Mi scusi, vedremo, tanto venerdì manca poco, ma ammesso che siano solo 419.000 le domande giacenti, cioè le domande che manca, ma qui si riferisce, secondo lei, alla cassa integrazione anche di marzo? O cioè è proprio alla somma di tutti quelli che hanno richiesto. Quindi se io credo, no, perché noi sappiamo che sulla cassa integrazione, quella di marzo, allora c'è chi l'ha già ricevuta, chi era in ordinaria, perché lì l'impresa anticipa i soldi e poi va in credito con l'INPS, no? Certo. Sulla straordinaria anche lì va un po' meglio, se ho ben capito, cioè, sì. E invece il grosso problema è la cassa integrazione in deroga che doveva passare dalle regioni, adesso poi il governo ha cambiato col decreto, diciamo, maggio, insomma, perso anche il conto dei mesi, ma ha cambiato dicendo che il 40% può essere anticipato dall'INPS. Quindi, voglio dire, lei immagina che queste 419.000 siano tutte legate a un tipo di cassa integrazione? No, perché se non ricordo male, anzi penso di non sbagliare, quando l'INPS dà i numeri dei beneficiari eccetera, non tiene conto nel calcolo che fa delle casse integrazioni in deroga, le tiene separate. Quindi le 419.000 domande che devono essere ancora pagate sono quelle ordinarie o straordinarie? Esatto, tendenzialmente ordinarie, la maggior parte. Tendenzialmente ordinarie. E credo che tra i 420.000 ci siano quelli che non hanno ancora ricevuto niente, quindi hanno ricevuto ancora quella di marzo. Ok, ma in questi 420.000, secondo lei, ci possono essere lavoratori che hanno ricevuto l'anticipo dall'azienda, per capirci? No. No. No, perché se quello che viene, meno, dai dati che vengono presentati, sono i 7.600.000 che citava anche lei, sono quelli che l'hanno ricevuta al di là della formula, alcune anticipate, altre no. Sono quelli che l'hanno ricevuta, quindi no, direi di no. Ripeto, c'è veramente poca chiarezza. Sì, sa perché no, ma sa perché mi interessa la cosa? Perché è interessante che il presidente di un ente che deve ancora pagare la cassa integrazione per 420.000, almeno 420.000 operai e dipendenti, da marzo, e non sono quelle anticipate dalle aziende, perché appunto lei ha detto su 7 milioni, no? Adesso prendiamo per buone le cifre. Non so quanti sono quelle anticipate, ma credo che il numero ci sia. Prendiamo per buone le cifre, diciamo, quelli già pagati dall'INPS dalle imprese, sono 7.600.000 che hanno già ricevuto la cassa integrazione o perché gliel'ha anticipata l'impresa, ripeto, per la terza volta, e poi va in credito d'imposta con l'INPS, o perché gliel'ha pagata direttamente l'INPS, giusto? Sì. Quindi ne mancano ancora 420.000. Io mi attengo ai numeri dell'INPS. Allora io mi chiedo, come faccio il presidente di un ente che deve ancora pagare, siamo a giugno, la cassa integrazione, o fare in modo che venga pagata a 420.000 dipendenti di imprese? Per carità, sarà sommerso di lavoro, immagino che non sto dicendo che sia solo colpa sua, però prima di iniziare ad attaccare le imprese e dire che alcuni lo fanno per pigrizia, per opportunismo, ragazzi, qua i fatturati sono a meno 40, meno 50, meno 60, ma che film si è visto, Tridico? Ripeto, al di là di reati che si chiamano truffa ai danni dello Stato, perché se tu fai lavorare qualcuno in cassa integrazione è truffa ai danni dello Stato. Per cui io starei zitto, paga queste 420.000, ti dico. Poi a consuntivo ci comunicherà quanto ritiene, con dati più precisi, non potrebbe essere magari e quant'altro, no? E ci possono anche essere imprenditori, capito? Ci possono essere anche presidenti dell'INPS che non fanno bene il loro lavoro, ma è tutta teoria. Allora, prima paga la cassa integrazione, che manca 500.000 quasi di persone, che non hanno visto un euro, neanche l'anticipo dall'azienda, mezzo milione di persone. Poi ci racconterà se gli ispettori dell'INPS hanno trovato abusi, dove si sono collocati questi abusi. Mi sembra allucinante che uno che è ancora in ritardo di mezzo milione di persone si metta a dire però poi qualcuno può averne abusato. Fai il tuo lavoro e poi dici qual è la valutazione del tuo lavoro. Seghetti, grazie anche a lei, Seghetti, grazie anche a lei, perché è uno dei pochi che ha i numeri in mano. E adesso andiamo a un altro tema, il tavolo, o meglio gli stati generali sull'economia. Moriremo di retorica se va avanti così. Allora, andiamo agli stati generali dell'economia e soprattutto al piano Colao, che, se ho ben visto, deve rappresentare il testo base, l'elemento di dibattito per gli stati generali dell'economia. Allora, ringrazio di nuovo il professor Marco Fortis, che poi sentiremo anche dopo il GR24, insegna economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano e vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera. Buonasera. Mi dà un primo commento, poi chiaramente la faccio parlare più a lungo sul piano Colao. Avrà letto anche lei, diciamo, i punti, le aree di intervento, le anticipazioni dei giornali, delle agenzie? Sì. Dunque, il piano appare estremamente articolato e dettagliato. Credo che contenga una somma di tantissime cose utili per l'economia, di cui si è molto parlato anche negli anni, proposte di correzione e di reintroduzione di misure che avevano funzionato, come quella di un ACE che diventa una superace, soprattutto per imprese che si impegnino nella tecnologia green. Poi ci sono anche una riproposta del piano Industria 4.0 ampliato e sostenuto, misure per favorire da parte delle imprese l'aumento della capitalizzazione delle imprese stesse, misure fiscali di incentivazione. Sono tutte cose molto importanti. Guardando questo piano si ha quasi come l'impressione che sia un dettagliatissimo manuale di istruzioni, ma forse, come succede spesso per quando si compra qualche elettrodomestico un po' complesso, è utile vedere anche la guida veloce per partire subito, perché altrimenti la lettura di questo piano, credo che anche da parte di molti esponenti del mondo politico, risulta molto complessa. Un piano così dettagliato che ci vuole una buona giornata per vederselo tutto, nelle streghe. Sì, sono 53 pagine di rapporto accompagnate da 121 pagine di schede con 102 proposte. Mi piace l'esempio che lei ha fatto, poi lo riprenderemo, delle istruzioni per l'elettrodomestico, sono importantissime. Poi però uno va sempre a guardarsi la guida veloce per capire come fare a far funzionare subito l'elettrodomestico. Non dico che tu non debba guardare anche il resto, perché poi ci sono molte cose, ma intanto devi farla partire sto elettrodomestico senza tante polemiche. Resti con noi, Fortis, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La tua impresa non ha confini, i tuoi uomini sono sul campo, là fuori. La loro sfida sono le manutenzioni, hanno bisogno di informazioni chiare e tu devi tenere tutto sotto controllo. Per questo Evolvex ha creato un software cloud innovativo per il Field Service Management. Riduci i costi e migliora l'efficienza. Vai su interventosemplice.it. Adesso che la mia casa ha protetto me, è il momento di proteggere lei. Adesso che ricomincio a correre, meglio sentire uno specialista per avere i consigli giusti. Adesso che Birillo è il nostro cucciolo, voglio prendermi cura di lui. Adesso è il momento di avere tutto in un'unica assicurazione. Con Immagina Adesso di Generali Italia hai una soluzione assicurativa personalizzata e flessibile, adatta alle esigenze di tutti. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Insieme generiamo fiducia. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su generali.it. Vitae Online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia Online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia Online. L'e-commerce era tabù, ma se lo fai vende di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. In Italia c'è una chiesa che gestisce l'8 per 1000 insieme agli altri e a braccia aperte, per sostenere chi non ce la fa da solo, per la salute e la qualità della vita, per chi è rimasto indietro, per il pianeta. Come ogni anno, senza pregiudizi religiosi, culturali o di genere. Firma per la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, l'altro 8 per 1000. Trovi il resoconto dettagliato dei progetti sostenuti su www.8permillevaldese.org. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, i dati della Protezione Civile, come ogni giorno a quest'ora. Partiamo dai dati, diciamo, clinici, ospedalieri. I ricoverati sono 168 in meno, e il dato è buono perché è un meno 3,5% più alto rispetto a ieri e anche a domenica. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 in meno, il dato è molto buono, sono 7% in meno rispetto a ieri. È un dato molto più forte rispetto a ieri e l'altro ieri, e i decessi sono, ahimè, dico perché sono ancora alti, 79, più alti di ieri, più 0,2%, ieri erano stati 65, domenica 53, sono sostanzialmente nella media della settimana scorsa, dove si oscillava tra i 60 e gli 88 decessi nei due estremi. I contagi, 283 in più, sono più 0,1%, guariti 2062, più 2 positivi, meno 1858. Però mi sembrano buoni dati sulle terapie intensive e i ricoveri, in linea sui contagi, e purtroppo dico in linea anche, quindi non migliorativi ma neanche peggiorativi, sui decessi. Vedo molti insulti sul tridico, ma guardate, io ho detto una cosa molto banale, che prima di iniziare a avanzare sospetti indistinti, perché se hai degli elementi, ripeto, è un reato utilizzare la cassa, un lavoratore in cassa integrazione, è una truffa idea dello Stato, devi circostanziare la critica, perché non puoi dire ho la sensazione che per pigrizia, per opportunismo, alcuni settori vi possono essere anche imprenditori che non affrontano la difficoltà della riapertura, tanto c'è lo Stato. Devi essere circostanziato, e soprattutto una critica che Tridico può fare una volta che l'INPS ha pagato almeno le 420.000 domande giacenti. Ripeto, queste sono quelle in cui nemmeno vi è stato l'anticipo dell'azienda. Sono 420.000 domande di cassa integrazione vuote, cioè che, in cui i lavoratori hanno avuto zero, non hanno neanche avuto l'anticipo dell'impresa. Vabbè. Allora, professor Fortis, lei usava una bella immagine sul piano Colao, cioè da un lato è come il libretto di istruzioni per un elettrodomestico, è molto ampio, o per un'automobile, e per carità va letto, perché poi vi possono essere tante cose che nei singoli casi servono. Però poi quello che noi cerchiamo subito è le istruzioni a breve, la sintesi per poter far partire l'automobile o l'elettrodomestico. Per cui lei, di queste, alla luce anche del tavolo sull'export ieri, il patto sull'export, quali sono, come istruzioni brevi, quali le sono sembrate più di immediata applicazione? Diciamo che il patto sull'export di fatto è un po' come se avesse già fatto un passo avanti, perché molte delle indicazioni contenute anche nel piano Colao sono già state trasformate almeno in un piano operativo specifico per sostenere il sistema esportativo. Poi se guardiamo al resto del piano, chiaramente misure, alcune misure per le imprese sono essenzialmente misure per gestire l'emergenza di breve periodo, che riguardano la liquidità delle imprese, le compensazioni fiscali, la sospensione di oneri di varia natura che riguardano anche le locazioni, eccetera. Poi però c'è tutto un progetto più ampio che di misure che riguardano anche, ripeto, il rafforzamento patrimoniale delle imprese, che secondo me è molto importante, e che riguarda anche poi soprattutto il rilancio di un progetto di investimenti da parte delle imprese. È chiaro che in questo momento la domanda interna ed estera è bassa, c'è sovracapacità produttiva e quindi uno dice le imprese in questo contesto è difficile che facciano degli investimenti perché li hanno già fatti prima e hanno una sovracapacità temporanea. Però molte imprese in realtà sono interessate a fare ulteriori investimenti e a proseguire lungo la direttrice del piano Industria 4.0. Disegnare sin d'ora un ripotenziamento di questo piano vuol dire dare diciamo una prospettiva, perché uno sa che poi appena riparte la domanda deve essere pronto, ci sono delle opportunità da cogliere, ci sono degli investimenti da fare. Quindi non si è ancora capito che questo piano negli ultimi 5 anni ha trasformato l'industria italiana in un'industria che aveva molti aspetti obsoleti in un'industria veramente moderna. Cioè noi abbiamo chiuso il 2019 che eravamo, consentendoci un rallentamento della domanda internazionale dovuta alle tensioni commerciali Stati Uniti-Cina, la crisi tedesca, ma era ancora un'industria molto lanciata e che era, si era molto ammodernata. Adesso poter dare una linea di continuità a questo processo, portarlo ulteriormente avanti, è una cosa secondo me molto importante. Così come è importante rafforzare sul piano dell'export la possibilità da parte delle imprese più piccole di crescere dimensionalmente, di acquisire una fisionomia non di esportatrici temporanee e saltuarie, ma di esportatrici strutturali. Anche le piccole con l'export manager possono fare questo salto di qualità. Ecco, per concludere proprio sull'export, che era il tema per cui l'avevamo invitata ieri, il piano export 1.400.000.000 annunciato ieri il ministro Di Maio e il ministro Gualtieri. La cosa più importante di quel piano come titolo, qual è, da attuare subito secondo lei? Diciamo che i punti più qualificanti sono certamente quello di aiutare anche le imprese più piccole attraverso queste misure di sostegno, di finanziamento, di voucher per gli export manager a diventare esportatori strutturali, perché qui non vorrei che sembrasse che il nostro export è sempre qualcosa che è attaccato ad un filo molto fragile. Noi abbiamo, lo anticipavo ieri, il sistema non delle micro ma delle piccole imprese con più di 10 addetti, che in ambito OCSE è il sistema di piccole imprese che esporta di più a livello di tutti i maggiori paesi avanzati. Le medie imprese sono terze per numero dopo quelle tedesche e quelle americane, ma esportano di più di quelle tedesche e di quelle americane. Poi abbiamo anche le medie imprese da 250 fino a 499 addetti, che sono fortissime. In più abbiamo un manipolo di circa 700 grandi imprese che esportano pur sempre 130 miliardi di euro. Cioè, sommando insieme quello che abbiamo di piccolo e di medio e di medio grande, alle poche grandi imprese che abbiamo, che comunque non hanno le dimensioni di quelle tedesche, le nostre grandi imprese sono la Luxottica, la Ferrero, cioè imprese che sono leader di nicchia ma non possono avere dimensioni di decine di miliardi di dollari o di euro di fatturato. Noi abbiamo un sistema esportativo già molto forte, ma se anche le micro lentamente diventano delle piccole e poi delle medie, questo è il processo chiave che dobbiamo innescare. Quindi tutto ciò che aiuta in questo senso è importantissimo. L'altra cosa importante sono gli investimenti sulle fiere, cioè proseguire in quel processo di rafforzamento dei grandi punti fieristici e degli appuntamenti principali che sono fondamentali per il settore. Quest'anno purtroppo le fiere sono state sospese a causa dell'emergenza, ma dal 2021 bisogna ritornare a giocare da protagonisti in tutti questi anni. Sì, e visto che io avevo citato quell'iniziativa dell'allora ministro Calenda, non ho nessun problema a riconoscere che fu proficua, cioè dire diamo i soldi dello Stato solo agli enti fieristici che non si fanno concorrenza in casa, che si accorpano, penso al caso virtuoso di Vicenza e Arezzo sull'oro, ma non solo. Cito anche Calenda, che poco fa ha twittato come leader di Azione: avete chiamato voi Colao e poi dite che sceglie la politica, e come al solito lo scaricate quando la sceneggiata della task force è finita e imparate a far funzionare la cassa integrazione e la scuola. Altro che poi sceglie la politica. Vabbè, l'ha presa bene Calenda sul piano Colao e su Tridico e sulla scuola. Devo dire, spero che non è un endorsement a niente, devo dire che sono d'accordo che cassa integrazione e scuola andrebbero risolte prima di polemizzare. Poi torneremo con lei, professor Fortis, nelle prossime settimane, perché mi interessa anche la crescita dimensionale delle imprese, se deve avvenire come singola impresa o all'interno della filiera, cioè che cresca tutta la filiera, di cui magari tu sei un fornitore, un subfornitore, o la singola impresa. Intanto ringrazio Marco Fortis e resto però sul tema, perché oggi c'è un'analisi del piano Colao, a mio avviso molto interessante, fatta da un altro economista, che è Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Università Bocconi ed è presidente del REF Ricerche. Professor Perotti, buonasera. Buonasera. Senta, no, visto che lei ha indicato quattro montagne da scalare per il governo, immagino, per tradurre in elementi concreti il documento di Colao, con la sintesi che è proprio del mezzo radiofonico, ci può indicare queste quattro montagne, che già non sono poche? Beh, la prima è, ammesso che si vogliano attuare, che tutto bisogna deciderlo, ma la mia impressione è che non sia tanto un problema politico la gran parte di queste proposte, credo, almeno credevo ieri, oggi non sono più tanto sicuro, siano condivise da quasi tutti. Il problema di attuarle non è tanto politico, ma quanto di rapporti tra i politici, i governanti, il Premier Conte in primis e poi i ministri e le strutture ministeriali. Il secondo. Quindi il primo, secondo me, è la resistenza che potrebbero porre alcune strutture burocratiche, ministeriali e categorie. Ministeriali, certo. E qui secondo me la cosa importante è che i politici devono imparare che devono mettere le mani in pasta, devono chiudersi in una stanza e fare meno comizi, meno apparizioni in TV magari, chiudersi in una stanza e mettere le mani in pasta sui provvedimenti invece di delegare tutto ai direttori di dipartimento o quant'altro. Il secondo punto, adesso non me ne ricordo neanche tutti. Ma... erano tre, guardi, la vastità, cioè, va riempito, le diceva, se ben ricordo, adesso vado a memoria anch'io, di contenuti specifici, nel senso che qua basta non avere, aggiungo, una proliferazione di leggi, regolamenti e quant'altro, che poi ingolfino ancora di più la macchina. No? Bisogna evitare una ripetizione del decreto rilancio, che era centinaia di pagine con centinaia di rimandi da altre norme, perché questo è il decreto rilancio moltiplicato per 100, il piano Colao, ammesso che si attui tutto. Il terzo punto era che, almeno la mia limitata esperienza quando ho lavorato a Palazzo Chigi per Renzi, è che i ministeri sono molto diversi l'uno dall'altro, cioè, i ministri, ce ne sono alcuni capaci, strutture capaci, ministri e strutture completamente inadeguate. Adesso non faccio nomi, non faccio. Peccato. Però chiunque lavori lì vede subito, basta interagire per 3 minuti con certi dirigenti o con certi ministri e capire che non sono in grado di fare certe riforme. Quindi il primo ministro lo sa benissimo quali sono. Quindi il punto è, se si vuole attuarle seriamente, bisogna bypassare questi ministeri e questi ministri, questi dirigenti che non sono in grado di attuare le riforme. Si può fare volendo, però anche qui è una decisione che deve prendere. Hai in mente qualche ministro in particolare in questo periodo? No, in mente diciamo ministri, ministeri e dirigenti di quando ho lavorato io, era chiarissimo, cioè, bastava parlarci 3 minuti per capire che non erano grande di fare riforme moderne. Diciamo. Il quarto punto, se ben ricordo, è che manca forse la spending review. Ecco, no, questa non è una critica, perché questo non era previsto. Aveva il compito di fare la spending review, che sarebbe stata un compito a raddoppiare o triplicare i compiti, già c'era poco tempo. Però il problema, secondo me, è che non si sono posti il problema dei costi, che anche questo non è una critica, perché loro è stato chiesto di fare delle proposte, poi sono i politici dati che non decide, però quando si fa questo tipo di proposte c'è la tendenza a mettere dentro tutto, perché tanto non dobbiamo stare lì a calcolare i costi, e c'è la tendenza ad aggiungere, perché tutto sembra bello, tutto è ovviamente potente, si fa tutto quello che sembra bello. C'è la tendenza a fare tante raccomandazioni, tante belle parole, tante belle intenzioni. Alcune parti sono concrete, secondo me, ci sono dei suggerimenti concreti, altre parti sono piene di intenzioni e belle parole. Vorrei riprendere l'esempio che faceva poco fa Marco Forti. Si diceva, attenzione, perché è vero che anche quando prendiamo il libretto di istruzione di un'automobile, di un elettrodomestico, c'è decine e decine di pagine, però poi tutti noi, per farlo partire, per iniziare a essere operativi, andiamo nella guida rapida, nella guida pratica. Ora, è vero che il documento è di 53 pagine e più 121 pagine di schede lavoro, però, e sono 102 proposte in 6 diverse aree, lei, che ha avuto modo di vedere il documento, quali ritiene più da manuale rapido, cioè che possono partire, altre invece richiedono tempi anche delle volte fisiologicamente più lunghi, si deve ridefinire interi ambiti, è chiaro che non puoi farlo in 2-3 mesi, questo va detto, cioè la burocrazia e la giustizia civile, io spero che finalmente si metta a mano, ma non mi illudo, visto che non ce l'hanno fatta gli altri governi, che possa venire in tempo breve. E invece la parte, diciamo, di istruzioni rapide all'uso? Però dunque non c'è niente sulla giustizia in questo documento. No, parlavo delle intenzioni del governo dopo le dichiarazioni di Conte, certo. La parte quasi pronta per l'uso, secondo me, è la prima parte che si riferisce all'emergenza attuale, dove ci sono tante proposte, alcune abbastanza dettagliate, altre da riempire, ma ce ne sono tante. Una che è un esempio abbastanza importante di quanto sia importante non dover fare i conti in questo documento. Si propone di rimandare il pagamento delle tasse dell'acconto di novembre. Io non so se, cioè, qui bisogna fare i conti, perché se nessuno paga le tasse dell'acconto di novembre non so bene cosa succede alle tasse dello Stato. Per carità, bisogna capire anche come sta andando il deficit, da come la capisco io, però perché le tasse servono, penso all'IRA, a pagare per esempio le spese sanitarie. È chiaro che le imprese in difficoltà, che ne dica Tridico, che fatturano il 40-50%, nel mondo del commercio si arriva al 60% in meno, hanno difficoltà, per essere eufemistici, a rispettare le scadenze fiscali. Chiaro che tu puoi fare ancora deficit, in questo momento l'Europa, diciamo, non ha vincoli, però poi il deficit diventa debito e devi pagarlo prima o poi. Rinunciare a tutte le, è una cosa che sarebbe una misura temporanea, ma rinunciare a tutte le tasse, io non sono sicuro di aver capito bene, a me sembra aver capito leggendo che propongano di rimandare, di rinunciare al conto di novembre. Sono tanti soldi, e quindi non so bene se il governo italiano, qualsiasi Stato, possa permettersi di rinunciare alla metà tasse dell'anno, se ho capito bene la proposta. Comunque, a parte questo, ce ne sono tante che sono sull'emergenza e sono abbastanza attuabili quasi nell'immediato. Non c'è moltissimo, devo dire, sulle mancanze del decreti rilancio di liquidità, su problemi dei ritardi dei pagamenti. Che prima parlavamo di Tridico, dei 490.000 lavoratori che ancora aspettano la cassa integrazione di marzo, lei che cosa avrebbe messo, per concludere, Perotti dentro? È una bella domanda. Avrei messo uno, che ho l'impressione che ci sia anche una responsabilità delle regioni in questo, anzi sono sicuro che c'è anche una responsabilità delle regioni nel ritardare il processo. E l'altro però, lì ci vuole uno che sappia cosa funziona e cosa non funziona all'INPS. E questo è la persona che lo sa, ovviamente, il mio amico Tito Boeri. Perché lì c'è stato chiaramente un fallimento. Proprio gestionale. Meno male che lo dice lei, perché se lo dico io vengo insultato da alcuni ascoltatori in continuazione, che ce l'ho con Tridico, ma non tanto il click day che è stato un disastro, ma anche il resto infatti io penso che uno dovrebbe chiedere intanto scusa e poi far capire come intende velocizzare le pratiche dell'INPS. L'ho interrotta però, Perotti. Non so neanche se è colpa specifica di Tridico, però insomma, dopo 2-3 mesi, questo secondo me è un esempio di come i politici tipicamente facciano una riunione, del Consiglio dei Ministri emanano il decreto e poi se ne lavano le mani. Io non dico che i ministri devono andare proprio dentro nei dettagli minimi, perché veramente non è che possa stare però... nei dettagli minimi di ogni decreto di 400 pagine, però poi non devono lavarsene le mani e abbandonarlo tutto ai dirigenti. Devono seguire, devono soprattutto, ripeto, come ho detto prima, chiudersi in una stanza e fare la cosiddetta challenge, cioè chiudersi in una stanza con gli avvocati del diavolo che dicono cosa può andare male, andare storto in quello che stiamo facendo. Mm-hmm. Bisogna farlo questo, perché sennò i decreti non funzionano, non basta scrivere le cose in bene. Sì, è un approccio molto, diciamo, professionale quello che lei invoca. Aggiungo, bisogna anche conoscere quello di cui stai parlando, chiudersi in una stanza, sono d'accordo. Mettersi lì a vedere come si fa anche nelle imprese, nel luogo di lavoro, che cosa potrebbe non funzionare, che cosa potrebbe andare storto, se vi sono delle cose incomprese, e seguire anche il lavoro dei vari dirigenti, perché se no poi tra il dire e il fare poi di mezzo c'è appunto tutte le pieghe della burocrazia che bloccano le cose. Tra l'altro, appunto, questo l'abbiamo visto capitare in altri decreti. Cioè, non è l'atto politico che è sbagliato, è il non seguire la sua realizzazione concreta e operativa, che spesso, non sempre, spesso manca. Grazie anche a Roberto Perotti per la chiarezza che lo contraddistingue. Giustamente alcuni ascoltatori mi hanno fatto notare che nei decessi di oggi c'erano 39 decessi non conteggiati in Abruzzo precedentemente, 32 decessi dei giorni scorsi non conteggiati oggi. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata.